Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per alcuni di questi si tratta chiaramente anche di uno sviluppo, e qui ci riferiamo soprattutto all'esito delle elezioni in Grecia. Per altri invece sono temi nuovi. Domani per esempio la Camera vota il parere per il decreto legislativo che riguarda il mondo delle assicurazioni, dove è contenuta anche una forma di depenalizzazione per le frodi alle assicurazioni. Ne parleremo fra pochissimo. L'ILVA è un altro tema di cui ci occuperemo, perché verso le 19, se viene confermato l'orario, si terrà nella sede dell'ILVA a Roma e non al Ministero dello Sviluppo Economico, come è previsto in un primo momento, l'incontro fra i tre commissari straordinari Gnudi, Carruba e Laghi e i sindacati di FIM, FIOM e WILM. Il gruppo dovrebbe ufficialmente inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico la cassa integrazione straordinaria, la decisione di una cassa integrazione straordinaria a rotazione per i 5.000 addetti dell'ILVA, e a breve si bloccherà purtroppo l'altoforno numero 5 per lavori di manutenzione, ma non si riesce a capire ancora se contestualmente apriranno l'altoforno 1, su quello che fu chiuso, lo ricorderete, dopo la sentenza della magistratura. Dal 2012 a suo tempo noi dicemmo che era assolutamente corretto, ci mancherebbe, che la magistratura si occupasse di quello che era stato l'ipotesi di danno ambientale e di danno alle persone. Però invitammo anche a valutare se si fosse riusciti a tenere assieme le due cose, cioè non chiudere un altoforno e non bloccare la produzione di uno stabilimento che è il primo, la prima acciaieria in Europa, da lavoro a 15.000 famiglie a Taranto, e allo stesso tempo mettere in sicurezza l'impianto. Così non si è riusciti a fare, e quindi l'altoforno 1 ha chiuso nel 2012. Il governo ha in qualche modo blindato l'ILVA dall'offerta degli indiani di ArcelorMittal, a nostro avviso correttamente, nel senso che il rischio forte era che poi il gruppo indiano intanto avrebbe comprato l'ILVA a prezzo più che di saldo, quasi regalata, ma poi il futuro dell'ILVA sarebbe rimasto incerto. I grandi gruppi, ArcelorMittal è il primo gruppo al mondo nell'acciaio, ragionano su base globale, quindi possono, come ha già fatto ArcelorMittal in Francia, chiudere un impianto perché ritengono più conveniente mantenere altri impianti aperti, il che voleva dire nessuna garanzia sul futuro dell'ILVA, che ripeto, al di là delle accuse ai Riva e al di là appunto di tutte le verifiche necessarie, resta un impianto assolutamente produttivo e resta la prima acciaieria d'Europa. Fornisce praticamente, forniva, il dato forse andrebbe aggiornato, circa il 50% della produzione siderurgica del paese. È in amministrazione straordinaria dal gennaio del 2015. Faccio notare che il fatturato del gruppo è precipitato dai 6 miliardi del 2011 ai 3 miliardi e 8 del 2013. Quindi il danno, tra virgolette, c'è già stato. E tra l'altro c'è anche una protesta dei lavoratori dell'indotto dell'ILVA, i fornitori, perché non percepiscono lo stipendio da mesi, chiedono garanzie sul futuro occupazionale. Oggi presidi davanti alla fabbrica. Anche di questo parleremo, e parleremo anche di Grecia. Il mercato oggi come va? Allora, debole Milano, ma meno debole di altre borse europee. Penso a Parigi che perde l'1,21, Francoforte l'1,70, Londra lo 0,90% di calo, l'America perde quasi il 2%. Invece Milano perde lo 0,70, un calo più contenuto grazie ad alcuni titoli: Saipem più 4,20, A2A più 3,60, Mediobanca più 2,20, Autogrill più 1,20, Gitec più 1,20, Mediolanum più 1,16, Generali più 1% come Ferragamo. Mentre oggi sono deboli tutti gli altri titoli, il settore bancario, anche se non è il più debole, oggi a essere più debole di tutti è il gruppo Fiat Chrysler, che però viene da un mese e mezzo di continui rialzi. CNH Industrial, quindi Case New Holland, meno 3,50, Fiat Chrysler meno 3,35 e anche Xor, la controllante, meno 1,80%. Poi negativa ST Microelectronics del 2,26, Moncler pure del 2,20, Mediaset del 2,10%, Finmeccanica dell'1,90. E poi c'è il gruppo delle banche, Unicredit meno 1,70, Pop Milano meno 1,30, Monte dei Paschi meno 1%, come la Popolare Emilia Romagna, e sul fronte banche cito anche il Banco Popolare meno 0,60 come Intesa San Paolo. Chiudiamo con due titoli che non c'entrano niente col mondo bancario: Enel meno 1,30 e Enel Green Power meno 1,20%. Euro in leggero recupero, o meglio in recupero a 1,1391 verso quota 1,14. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve, partendo anche dalle dichiarazioni oggi del ministro all'economia Piercarlo Padoan, sia sul voto greco ma anche sul, diciamo, il giudizio europeo alle riforme italiane. Allora, partiamo dall'economia internazionale intesa come Russia. Oggi la borsa di Mosca, dopo l'abbassamento del voto deciso ieri da Standard & Poor's, una delle agenzie che danno i voti al debiti dei vari paesi oltre che dei soggetti privati, ha portato il debito russo a livello junk, a livello spazzatura. L'indice russo, quello in dollari, l'indice RTS, ha perso quasi il 6%. Il premier Dmitry Medvedev ha detto che la decisione di Standard & Poor's di tagliare il voto a livello spazzatura di natura politica, sono decisioni strumentali da parte di agenzie americane. Nel frattempo, qui riguarda più la variabile, diciamo, geopolitica, e mi riferisco all'Ucraina, la grivnia ha registrato un nuovo minimo storico, e la valuta ucraina ha registrato un nuovo minimo storico sul dollaro, scambiato a 15,89. Atene ha chiuso in forte calo oggi, Atene meno 3,70%, soprattutto per via delle banche. Le banche principali, Piraeus, Eurobank e National Bank of Greece, hanno accusato cali di oltre il 10%. Male anche i titoli di Stato in Grecia, lo spread è salito di 40 punti e il BTP greco a 10 anni rende al 9,2%, che chiaramente è un livello insostenibile nel lungo tempo. Nel frattempo è stata resa nota la lista dei ministri del governo del neo premier Alexis Tsipras. Alle finanze c'è Yannis Varoufakis, mentre Yannis Dragasakis sarà vice premier con delega ai negoziati con l'Unione Europea. Al leader del partito di destra, quello con cui si è alleato a sorpresa Tsipras, è stato assegnato il Ministero della Difesa, mentre agli esteri va Nikos Kotsia. All'economia andrà George Statakis, che è figlio di armatori ed è stato inviato dal partito nella City nei mesi scorsi per spiegare ai fondi globali che hanno sede nella City londinese, che Tsipras non ha nessuna intenzione di tornare alla dracma. I ministeri scendono complessivamente da 16 a 10. Faccio notare che il neo ministro delle finanze Yannis Varoufakis insegna nel Texas, negli Stati Uniti, a Austin, ed è un matematico e statistico di formazione. Fu anche famoso, diciamo, per alcune definizioni che diede sul piano di austerità europeo. Lo definì, le politiche di austerità, le definì il waterboarding fiscale. Waterboarding, ricorderete, è la tortura che veniva utilizzata a Guantanamo, ma non solo, dagli americani, e che rischia di trasformare l'Europa in un riformatorio vittoriano, disse proprio così. Ritenne un errore l'ingresso di Atene nell'area euro, ma non ha mai sostenuto l'uscita di Atene dall'euro e quindi dalla moneta unica, ma sostiene che l'Europa deve cambiare radicalmente il suo approccio alla crisi. Oggi ha concesso un'intervista in cui rassicura i partner europei, dice: come ministro delle finanze posso assicurarvi che non andrò all'Eurogruppo cercando una soluzione che sia buona solo per il contribuente greco e cattiva per quello irlandese, slovacco, tedesco, francese o italiano. In questo uno può cogliere anche un elemento polemico, nel senso che l'accusa più forte che si fa alla Germania, così faccio contento chi scrive, è che le soluzioni che la Germania propone sono sempre e solo buone per il contribuente tedesco, come dimostrano poi i dati economici. Allora qui dobbiamo capirci, perché qualcuno mi scrive: ma perché lei vuole che la Germania paghi per la corruzione greca e italiana o per gli sciali italiani e greci? No, nessuno vuole questo, e ci mancherebbe. Infatti le riforme le devono fare i singoli paesi, il deficit lo devono correggere i singoli paesi. Il problema è che spesso e volentieri l'approccio tedesco pensa solo al contribuente tedesco. Allora decidiamo se questo è il modo di procedere. Il ministro greco pensa ai greci, quello tedesco ai tedeschi, e a questo punto l'Europa non c'è più. Se esiste una casa unica oltre che una moneta unica, pensi sì a non danneggiare i tuoi elettori, ci mancherebbe, siamo tutti uomini di mondo, ma pensi anche al destino comune dell'Europa. Ora, che il fallimento delle politiche, che le politiche di austerità siano state un fallimento, non lo diciamo noi, lo dicono le cifre, contrariamente a chi scrive. Cioè l'Europa risulta, lo spiegavamo anche ieri, l'unica area in stagnazione economica, l'unica area al mondo in deflazione, i deficit non stanno migliorando, il debito non sta migliorando. Allora, voglio dire, cos'altro serve? Capisco che uno ha una fede ideologica, va bene. Per esempio, faccio notare che oggi è tornato a parlare il ministro dell'economia tedesco Schäuble al Parlamento europeo, ed è caduto, a mio avviso, in un lapsus freudiano, perché dice: attenzione, i greci soffrono non per le decisioni di Berlino e Bruxelles, ma per il fallimento della loro elite politica negli ultimi decenni. Affermazione anche condivisibile, cioè la Grecia si è ficcata in quella situazione nel 2011 per una classe politica vergognosa, che ha permesso evasione fiscale da record, tutele al pubblico impiego incredibili e ha anche truccato i conti. Il lapsus freudiano che vediamo noi è che Schäuble dice: non, i greci non soffrono per le decisioni di Berlino e Bruxelles. Ma cosa c'entra Berlino? Cioè, decide Bruxelles. Cioè, ormai è talmente incorporato e metabolizzato nei ministri tedeschi che la Germania pesa quanto Bruxelles, non è un paese qualunque. Ma voi ve lo immaginate un ministro all'economia francese o spagnolo o italiano che dice: i greci soffrono non per le decisioni di Roma e Bruxelles o di Madrid e Bruxelles? Non lo direbbe nessuno, perché tutti citano Bruxelles e basta. Invece lui cita Berlino, incamerando il fatto che Berlino conta quanto Bruxelles. Va bene? No, non va bene, perché o siamo tutti uguali oppure siamo come nella fattoria degli animali di Orwell, in cui alcuni sono più uguali degli altri. E poi Schäuble dice: va bene la flessibilità, non è negativa in sé, ma non deve portare a una situazione in cui le regole convenute non vengono rispettate. Allora sarebbe sbagliata e distruggerebbe la fiducia. Ma quale fiducia? Schäuble, l'Europa in questo momento ha i livelli più bassi di fiducia da parte dei suoi cittadini da quando esiste. Ma qualcuno in Germania li legge i giornali o leggono solo i giornali tedeschi? E poi il vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'euro, che Valdis Dombrovskis, dice: l'Italia non ha un disavanzo eccessivo, però la flessibilità sarà limitata perché il deficit è vicino al 3%. E poi ha risposto in parte il ministro dell'economia Padoan in audizione al Parlamento europeo, dicendo: attenzione, l'Italia non sta violando le norme, guardate i numeri, l'Unione Europea apprezza le nostre riforme, faremmo valere il ciclo economico. E quindi il fatto che, secondo quanto prevede fin dall'origine il patto di stabilità, in circostanze eccezionali, quando c'è un rallentamento, una recessione, un calo dell'economia, si possono avere situazioni eccezionali. Certamente nel dialogo continuo e molto costruttivo che abbiamo con la Commissione faremo valere le cosiddette circostanze eccezionali, cioè la situazione macroeconomica ancora molto deteriorata, l'assenza di una crescita nominale, quindi dell'inflazione, che ovviamente non dipende da un paese membro, ma dalla politica monetaria, e soprattutto il grande sforzo delle riforme strutturali. Da questo punto di vista vorrei aggiungere un particolare importante: si insiste molto nelle discussioni di Ecofin dell'Eurogruppo che le riforme strutturali devono essere riforme implementate, il che significa che non devono essere semplicemente annunciate, ma devono essere quantomeno approvate a livello di governo e a livello di Parlamento, e naturalmente è tanto meglio se oltre a questo ci sono degli atti amministrativi che le implementano. Sono tutte cose che su un elenco non piccolo di riforme il governo sta già facendo, quindi posso anche dire che la Commissione apprezza molto questo sforzo, quindi continueremo in questa direzione. E poi il Ministro ha aggiunto, dopo l'intervento della Banca Centrale Europea, quella della settimana scorsa, ci si allontana dal rischio di deflazione, l'impatto delle riforme è più efficace, è il momento di accelerare però e aumentare la possibilità di crescita del lavoro. Abbiamo ritardi strutturali di 20 anni, bisogna mettere il turbo, come dice Renzi. Lo schema che stiamo vedendo, e cioè che l'Italia cresce meno di altri paesi, è uno schema purtroppo antico. Noi abbiamo ritardi strutturali che datano ad almeno un paio di decenni. Questo spiega perché il governo insiste tanto sulla dimensione strutturale. Bisogna colmare un ritardo nei confronti dei partner europei, anzi possibilmente superare la loro performance. E questo lo stiamo facendo. In questa nuova finestra di opportunità bisogna, come dice il Presidente del Consiglio, mettere il turbo. Mettere il turbo al paese, non mettere il turbo agli italiani, come alcuni di voi hanno scritto in questi giorni, con un eccesso di volgarità, ma efficace. Allora, proprio sul debito italiano è intervenuto sempre il ministro Padoan, che ha detto: il nostro debito sarà in discesa dal 2016 ed è sostenibile. Sono fiducioso che non ci saranno ulteriori aggiustamenti. E al debito italiano è dedicato lo spazio, i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che viene realizzato assieme a Radio Dimensione Suono. Oggi il commento e l'analisi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Per farti volare come una freccia ci vuole tutta la nostra fibra, perché tu sei le nostre ali e noi il tuo motore. Tu e Fastweb siamo la fibra che vola. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Mentre si guarda ancora a come il nuovo governo di Atene condurrà la trattativa con Bruxelles per ottenere un allentamento del piano di austerity, senza però perdere il sostegno di BCE e Fondo Monetario Internazionale, molti si interrogano sulle conseguenze che il voto in Grecia potrebbe avere su altri stati dell'Eurozona. Le concessioni che verranno fatte ad Atene si tradurranno in aperture anche verso questi paesi? Questa è un po' la domanda. C'è giustamente molta molta cautela. Intanto è arrivata a Roma la maxi delegazione di tecnici europei che dovrà far luce sui conti dell'Italia in vista dell'ulteriore verifica di marzo, alla quale appunto i conti italiani saranno sottoposti. Del nuovo esame ha parlato oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, per ricordare che l'Italia non infrange le regole della UE e che il deficit pubblico resta sotto il 3%. Secondo Padoan saremo promossi e non ci sarà bisogno di una nuova correzione dei conti. Il ministro sa che il problema italiano non è il deficit, cioè il disavanzo a fine anno, quanto piuttosto il debito pubblico, pari al 132% del PIL. Qui l'Europa aspetta risposte chiare, con le riforme strutturali da portare a termine, senza le quali non ci saranno i margini di flessibilità già promessi dall'Europa. Ma è innegabile, e il ministro lo dice, che una speranza arrivi anche dal quantitative easing, che insieme a un aumento dell'inflazione dovrebbe rimettere in moto l'economia. Insomma, tutti elementi per sperare che dal 2016 il rapporto debito-PIL possa davvero invertire il senso di marcia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Devo leggere un'agenzia appena battuta che riguarda la Grecia, più sulla politica estera ci mancherebbe, ma può far dare anche il senso di quello che sarà il nuovo governo greco. La Grecia è in disaccordo con i leader europei sulle ipotesi di nuove sanzioni restrittive per quello che riguarda la vicenda ucraina. Dice il comunicato dei leader dell'Unione Europea sull'Ucraina, nel quale si paventano nuove misure restrittive, è stato emesso senza la prevista procedura per ottenere consenso dagli Stati ed in particolare senza assicurarsi del consenso della Grecia. In questo contesto Atene non è d'accordo con la dichiarazione. Vedremo se risponderà Mrs. Pesh Mogherini su questo. Però forse la richiesta di maggiore collegialità in un'Europa che ha dato all'area euro l'impressione di essere solo attrazione tedesca non è male, no? E dai. Guardate sulla Germania, oggi non voglio dilungarmi, faccio solo notare che diciamo, la Germania è un grandissimo paese sulle riforme, sulla produzione, sulla qualità dei prodotti. Come lungimiranza politica, ecco, forse potrebbe imparare, perché mi sembra che il boomerang, cioè la rigidità mal si coniuga con la lungimiranza e con l'adattabilità. A chi mi dice, c'è qualcuno che continua a evocare Darwin e la teoria della selezione, posso far presente anche ai tedeschi che Darwin non ha mai detto che l'animale che vince la lotta per la selezione è quello più forte, alias Germania, ma è quello che si adatta di più al contesto? Ok? Per cui essere forti non serve, i dinosauri sono scomparsi, ed erano i più forti forse. Darwin dice che il processo di selezione naturale privilegia e avvantaggia l'animale che riesce ad adattarsi di più al contesto esterno e non va dritto come un treno col paraocchi fregandosene se il mondo fuori è cambiato e continuando a insistere sulle regole come se fossero scritte sulle tavole della Bibbia. Tutto qua, quindi è inutile continuare a citare principi darwiniani senza aver letto Darwin. Va bene, andiamo avanti per quello che riguarda il tema delle banche popolari, Asso Popolari dice che con la riforma sono a rischio 20.000 dipendenti, contrazione di 3 punti percentuali di PIL, rischio che il credito alla clientela cali per 80 miliardi, oh, manca solo l'invasione delle cavallette, ma insomma... Perché? Perché la riforma delle banche popolari contenuta nel decreto varato dal governo mette a rischio, secondo Asso Popolari, 20.000 posti di lavoro in 2 anni, determinerà una contrazione pari a 3 punti percentuali di PIL. Oh, perché poi? Un calo dei crediti alla clientela di 80 miliardi, anche qui non si capisce perché. Cioè, cos'è che le SPA non sanno più prestare i soldi alla clientela? E di cui 25 miliardi per le famiglie e 55 miliardi per le imprese. Il decreto metterà in moto un meccanismo speculativo con un progressivo trasferimento della proprietà di una parte rilevante del sistema bancario alle grandi banche internazionali. Sentite però, il decreto è migliorabile, abbiamo anche detto che forse il modo non era il massimo e soprattutto parlarne per giorni prima ha creato posizioni di vantaggio a chi ha comprato ed è emerso che abbiano comprato soprattutto da Londra i titoli, quindi si è rischiato l'aggiotaggio, il metodo non è piaciuto. Però adesso dire che se levi il voto capitario e quindi rendi contendibili banche che in questo momento non sono contendibili, Sole 24 Ore oggi spiega molto bene con un articolo di Fabio Pavesi come il recupero delle banche popolari in borsa abbia portato i livelli delle banche popolari a quelli delle altre banche. Perché? Perché scontavano un 20% in meno in media, proprio perché non erano contendibili, non potevano essere comprate o aggregate. Quando tu hai il voto capitario, che ogni testa è un voto, è difficile, e quando hai la soglia del possesso all'1%. Ora, il decreto è sicuramente migliorabile, però Asso Popolari e i vari presidenti delle popolari che parlano in questi giorni possono riconoscere che in questi anni, sarà 10 anni che ne parliamo in questo programma, non si è mosso nulla nell'autoriforma. Forse se avessero fatto una riforma loro, il governo non sarebbe intervenuto. Poi possiamo discutere se è intervenuto come un elefante in una cristalleria, può essere che ci sia stato un modo, diciamo, poco ortodosso per intervenire, ma è anche vero che la foresta pietrificata, per usare le parole di Carli, se non ricordo male, la foresta pietrificata in questo caso delle banche popolari, non del sistema bancario nel suo complesso, non ha fatto nulla in questi 11 anni. C'era una riforma, vado a memoria, anche qui era il deputato di Forza Italia Iannone che propose una riforma a suo tempo, blindata, ma non è che avete fatto una riforma. Allora, potevate fare una riforma voi, autoriformarvi per mostrare le vostre buone intenzioni. È troppo tardi adesso dire caro mondo dei popolari, ma come, noi ci stavamo pensando 10 anni e quanto volevate ancora? Poi mi spiegate com'è che arrivano 20.000 posti di lavoro in 2 anni? Voi date già per scontate fusioni, va bene, fateci sapere quali. E perché si contrae il PIL di 3 punti percentuali? E perché calerebbero i crediti alla clientela e alle imprese? Perché diventi SPA? Fammi capire, perché diventi SPA? Allora, questo si chiama terrorismo mediatico. Criticate la riforma, ma non iniziate a dire 20.000 posti, 80 miliardi in meno, di cui 25 per le famiglie, 55 per le imprese. Perché? Perché i soldi vengono erogati alle imprese, alle famiglie, se tu sei popolare o sei SPA. Cioè Unicredito, Intesa non sanno erogare i soldi perché sono SPA, e invece Etruria e Lazio, Popolare di Lodi, vado avanti, Popolare di Verona è poi diventato Banco Popolare, lì andava tutto bene? Tutto bene, volete che citi i casi di nuovo? E per favore, dai, perché sennò veramente a me non ricordo appunto l'invasione delle cavallette, ce l'abbiamo? Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Vabbè, arriverà anche l'invasione delle cavallette se le popolari si trasformeranno in SPA. Ripeto, il decreto si può migliorare, però abbiate la coscienza di dire che in questi 10 anni non avete fatto una riforma sensibile sul mondo delle popolari, anche dall'interno, che garantisce uno stretto rapporto col territorio, sì, anche delle volte conflitti di interesse col territorio, anche delle volte una commistione con la politica del territorio e con i poteri forti di quel territorio, diciamola tutta, no? Mamma mia. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ci ha raggiunto in collegamento, e lo ringrazio, il direttore centrale dell'associazione che riunisce le imprese assicuratrici, Vittorio Verdone, buonasera. Buonasera. E ancora un po' di pazienza, ho il metodo della pubblicità, poi cerchiamo di capire che cosa potrebbe decidere domani il Parlamento, ossia il parere sulla, tra virgolette, depenalizzazione della frode alle assicurazioni. Voi siete molto preoccupati da questo, cerchiamo di capire perché. ...17:39 minuti. Allora, solo una precisazione a chi scrive sulle banche popolari: abbiamo detto che il metodo non è stato dei migliori, e soprattutto anche la speculazione che si è aperta in borsa, non me ne frega nulla che il, oddio, non so se sia così rilevante che il papà del ministro Boschi sia vicepresidente della banca Etruria e Lazio, mi interessa di più capire come hanno gestito quella banca, che mi sembra che sia stata gestita tutt'altro che bene. Però è chiaro che la speculazione finanziaria in borsa non va bene, che il governo prima doveva decidere e poi comunicare e non lasciare per 2 giorni il mercato. Ed è vero che, come la stampa ha rilevato, molti acquisti sono partiti da Londra, e bisogna stare attenti alle fughe di notizie su questi temi perché si fa il guadagno degli speculatori. Detto questo, e probabilmente si potevano essere consultate, hanno avuto 10 anni per fare una proposta, almeno 10 anni, perché la proposta di Iannone, vado a memoria ma sono abbastanza sicuro, è del 2001, una cosa del genere, 2002-2001. Forse 2003, comunque 10 anni ne hanno avuti tutti. In realtà loro, con la pressione di lobby che possono fare anche in Parlamento, hanno ottenuto lo status quo. Quello che non... però va bene che il governo riapra un tavolo, che dialoghi, che cerchi di capire anche le proposte che arriva dal mondo popolare, delle popolari. Quello che non si può dire è fare terrorismo psicologico, come sta facendo il comunicato Asso Popolari: 3 punti percentuali di PIL, 80 miliardi in meno di prestiti. Ma che roba è? Nei prestiti li dai se credi alla serietà di chi te lo chiede, non se sei popolare o SPA, ma qui si sfiora il ridicolo, abbiate pazienza, su. Allora, vediamo un po' invece cosa sta capitando al mondo assicurativo. Dottor Verdone, se ho ben capito, domani la Camera vota il parere sul decreto che dovrebbe sostanzialmente, il governo che l'ha sottoposto al Parlamento, è un testo di legge che contiene un numero di reati per i quali verrà introdotto l'ampio potere discrezionale dei giudici nel valutare la non abitualità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa, col fine di stabilire la non punibilità della condotta. Tra gli illeciti, se ho ben capito, rientra anche l'articolo 642 del codice penale, che punisce le frodi e la produzione di falsa documentazione assicurativa, contratti e tagliandi. Che cos'è che vi preoccupa? Dunque, rientrano tutti i delitti punibili fino a 5 anni, per cui anche la norma che lei citava, il 642 del codice penale. Noi diciamo che è un segnale non positivo che viene dato, perché al di là di tutti i casi di frodi che vengono poi esaminate dall'autorità giudiziaria nell'ambito delle associazioni per delinquere, sono effettivamente tanti, quando più soggetti concorrono, che non rientrano in questa tenuità dell'offesa, perché quando c'è l'associazione per delinquere chiaramente c'è una gravità superiore. Beh, tutte le altre ipotesi, anche quelle in cui un singolo compie comportamenti fraudolenti, non so, per esempio falsificando anche un documento assicurativo per ottenere un premio più basso, facendo vedere quindi che lui risiede in una zona magari meno rischiosa in cui si paga un premio più basso, oppure da solo facendo una falsa denuncia e quindi non mettendosi d'accordo con soggetti ovviamente disonesti, professionisti che l'assistono. Ecco, in questo caso la discrezionalità ci sembra veramente ampia, tra l'altro non si capisce se è una discrezionalità che opera a priori dal punto di vista cioè delle norme previste, oppure a posteriori ogni singolo giudice poi avrà da indicare le motivazioni per cui ritiene che quell'offesa sia tenue. Quindi da questo punto di vista speriamo che ci siano anche dei chiarimenti applicativi. Ecco, rispetto a tutte queste singole situazioni che non sono mica solo comuni al territorio nazionale italiano, ahimè le frodi in tutti i paesi in cui c'è l'assicurazione, quindi tutto il mondo, sono un fenomeno perturbatore grave dell'attività assicurativa, che poi ha conseguenze su tutta la collettività, perché si spalmano gli effetti su tutta la mutualità degli assicurati. Riteniamo che forse un pensiero andrebbe fatto per evitare che attraverso questa norma poi ci sia un senso di impunità. Ecco, però il legislatore immagino vorrà arrivare a forse sfoltire il numero di procedure penali, no? Quelle di minore entità. Sicuramente l'obiettivo è quello di ridurre il carico giudiziario, anche snellire le procedure, quindi arrivare subito all'archiviazione, anche se in questo caso risulterà, ma non varrà poi a particolari fini sul casellario, no? Centrale. Che sì, adesso il vostro mondo è un mondo, tra virgolette, strano, in cui si specchia un pezzo del paese. Allora, da un lato noi abbiamo le tariffe RC auto più care d'Europa, e lo studio l'ha realizzato la Boston Consulting per conto vostro, quindi immagino che... Assolutamente vero, anche ecco. Se c'è da dire che per fortuna negli ultimi 2 anni questo gap con i paesi europei si è un po' ridotto. Un po', nel senso che noi tra 2008 e 2012 pagavamo i premi pagati per le RC auto in Italia erano in media del 45% più alti rispetto alla media europea. Tra l'altro ogni automobilista italiano la polizza costa 491 euro all'anno in media contro i 278 della media europea. Pensate che in Spagna costa 199, in Gran Bretagna 360. Ora, e questo è un aspetto. L'altro aspetto è che però questo paese è anche il paese in cui vengono denunciati più incidenti. Allora, o guidiamo male o facciamo i furbi. Può essere tutte e due le cose. 7, quasi 8 incidenti ogni 100 assicurati contro i 6,5 della Germania e i 6 della Francia. Le frodi assicurative sono tra il 7 e il 10% contro una media che è la metà in Europa, tra il 3 e il 5%. E quindi, da un lato, i consumatori, gli automobilisti si lamentano di avere tariffe più alte d'Europa, del 40% più alte. Dall'altro voi dite sì, ma abbiamo anche gli automobilisti più furbi, per modo di dire, o più disonesti, per meglio dire, della media europea. Ora, su questo c'è un altro provvedimento del governo che invece, e qui mi riferisco a chi rappresenta il mondo delle carrozzerie d'auto, loro vi accusano accusano il governo di fare un provvedimento solamente a vostro favore. Il provvedimento riguarda il meccanismo di riparazione dei veicoli incidentati. Diventerebbe di competenza esclusiva delle officine affiliate alle compagnie assicurative, alle quali il danneggiato sarebbe di fatto costretto a rivolgersi. Secondo voi questo eliminerebbe le furberie, ma secondo i carrozzieri questo metterebbe nelle mani delle assicurazioni un mercato da 21.000 imprese con quasi 70.000 addetti e diversi miliardi di euro. Cioè, il vostro obiettivo qual è? è a svantaggio del cliente, perché sa, poi uno può pensare male e dire, ecco, così se la carrozzeria è quella, diciamo, segnalata e affiliata alla compagnia assicurativa, sicuramente se vuole mantenere un rapporto con la compagnia assicurativa cercherà di valutare il mio danno il meno possibile, o no? No, dunque, innanzitutto mi rifaccio anche al discorso che faceva lei prima sulle esagerazioni che sono solo terroristiche a questo punto. E innanzitutto la riparazione diretta da parte di carrozzerie fiduciarie delle compagnie esiste da 20 anni. Ci sono reti di carrozzerie che sono affiliate da tantissimo tempo a imprese e i carrozzieri che ne fanno parte sono anche soddisfatti perché comunque sono dei rapporti economici. Grazie alle economie di scala che si fanno in questo modo, perché se io riesco a fare delle convenzioni con una rete nutrita di autoriparatori riesco anche a stabilire condizioni che mi fanno risparmiare sulle riparazioni attraverso l'acquisto dei ricambi in un certo modo, convenendo le tariffe di manodopera e via dicendo, io posso produrre dei risparmi. La cosa che non è vera, tra quelle che sono state citate, è che sarebbe esclusiva, diciamo, previsione del futuro del mondo della riparazione dei danni RC auto, quando invece si tratterebbe soltanto, e già avviene senza norma, quindi noi a questo punto diciamo ma non la scrivete proprio la norma, avviene attraverso la sottoscrizione di condizioni contrattuali da parte del contraente nel momento in cui sceglie la polizza. Quindi io posso scegliere una clausola all'interno dei contratti che prevede il mio impegno nel caso di incidente di andare presso una delle carrozzerie convenzionate, a fronte di ciò io prendo uno sconto iniziale rispetto alla polizza tradizionale. Quindi una scelta libera da parte del contraente, soprattutto un obbligo da parte delle imprese di garantire tramite le reti fiduciarie riparazione a regola d'arte, perché è già prevista dalla normativa che queste riparazioni... Però voi partite dal presupposto, io ho capito, perdona se dice lei, però voi partite già dal presupposto che se io faccio riparare la mia auto nella carrozzeria a voi convenzionata, vi costerà di meno. Cioè partite già dal presupposto che insomma, in realtà se vado nella carrozzeria che voglio io, facciamo i furbi, il carrozziere si mette d'accordo con me, no, chiedo, perché insomma, non è solo fa cascare le braccia, ma ho capito. Sicuramente ci possono essere, e non sono la maggioranza, ma ci potranno essere sicuramente degli autoriparatori che ci speculano, cioè fanno più riparazioni o fanno vedere più riparazioni di quelle che sono necessarie, ma il problema è proprio, diciamo, di efficienza di un ciclo economico. Cioè se io ho potuto prefissare i costi e quindi stimare che dovrò affrontare per le riparazioni dei miei assicurati, della mutualità che sceglierà questa clausola, è chiaro che io do un vantaggio ai miei assicurati. Cioè voi avete anche delle economie di scala su questo, capito? Ho capito cosa dice lei. Va bene, vedremo cosa deciderà domani in Parlamento nel suo parere sia sulla depenalizzazione, poi come andrà avanti invece il provvedimento allo studio del governo. L'unica cosa che posso aggiungere è, speriamo che invece nel provvedimento che si sta diciamo profilando, detto concorrenza, non prevedano norme o inutili o che invece di ampliare la concorrenza e la libertà di offerta contrattuale la imbriglino, se no veramente torniamo a quello che lei citava, Verdone, le foreste pietrificate. Adesso torno sulle popolari perché c'è chi mi scrive, però Verdone, speriamo che non siano provvedimenti inutili per noi automobilisti, perché partiamo, ricordiamoci sempre, no, io vi ascolto da una vita che intervistiamo l'ANIA, ma ricordiamoci che al di là dei casi degli anni scorsi in cui l'antitrust multò le compagnie di assicurazione per il cartello e non fu l'unico, comunque stiamo pagando delle tariffe RC auto, poi voi mi dite perché siamo furbi, perché facciamo i furbi, perché siamo disonesti, il 45%, ma le pagano anche gli onesti queste, il 45% in più della media europea. Quindi speriamo che il decreto concorrenza vada a vantaggio nel mondo diciamo delle assicurazioni, in primo luogo ai guidatori d'auto onesti, onesti, ci mancherebbe. Grazie e buon lavoro al direttore generale dell'ANIA. Buonasera. Allora, scrive un ascoltatore, ma scusi, ma lei al di là del cinema, che immagino sia un'espressione, è in grado di dare una ragione concreta per cui le popolari andavano riformate? Allora io le giro la domanda, e lei è in grado di spiegarmi perché una banca che ha asset per più di 8 miliardi di euro deve essere trattata come se fosse ancora una piccola banca, una BCC del territorio? Cioè qual è il motivo per cui colossi bancari che sono al quarto, quinto, terzo, insomma, la classifica con Monte dei Paschi forse un po' sballata, devono avere il blocco del voto interno, una testa, un voto, cioè cosa hanno di popolari colossi da 8 miliardi in su? Chiedo. Nessuno, infatti, in questa riforma di legge tocca le BCC e tocca le banche sotto gli 8 miliardi, ma diciamo la differenza tra il Banco Popolare, così cito i più grossi, la Popolare Emilia Romagna, la UBI Banca e altre banche SPA, diciamocela tutta, ma la fanno i manager, la fa la gestione, ma non la fa il voto capitario, non la fa la soglia dell'1%. E comunque, ripeto, aspettiamo la proposta del mondo delle popolari, che finché non c'era un'iniziativa del governo si è ben guardato in questi 11 anni, 12 anni, 13 anni da fornire qualunque proposta di autoriforma. Ora io capisco che il tacchino è difficile che anticipi il Natale, come dicono negli Stati Uniti, però se no viene il sospetto che in realtà le varie poltrone, le varie presidenze, tutto si tenga e nessuno voglia toccare lo status quo, che non è questo il senso. Comunque aspettiamo la proposta e vediamo come andrà, come si svilupperà la vicenda. Oh, c'è una bella domanda, ma allora sulla base di questo principio andrebbero riformate anche le COP che hanno dimensioni, diciamo, in via di principio sì, nel senso che se tu non riesci più a distinguere una forma dall'altra, sì, insomma, perché no? Mettiamolo in concorrenza. Cioè, il problema vero delle banche popolari, poi adesso basta su questo tema, poi torneremo. Guarda, avremo Sapelli venerdì che ha difeso le banche popolari a spada tratta. Litigherò con Sapelli, come ho discusso con Masciandaro, che è l'economista, dietrovista del Sole 24 Ore, che le difendeva, come ho discusso con il segretario della FABI, che è il sindacato dei bancari. Per cui non è che invitiamo gente che non la pensa in questo modo. Personalmente ritengo che quando le dimensioni e la concorrenza che fai abbia poco a che fare con diciamo, l'identità originaria, devi diventare come gli altri. Su. E poi ripeto, nel caso delle banche popolari io non ricordo una differenza, gli scandali ci sono stati alla Popolare di Lodi come al Monte dei Paschi, abbiamo visto vicende come Italease nel Banco Popolare, come in altre banche che invece erano SPA. Dov'è la differenza in questa purezza nella gestione che le popolari evocano a sé? Dai, ci sono le banche buone, le banche meno buone, le banche cattive, come ci sono i manager bravi, i manager meno bravi, i manager che rubano, no? La borsa, allora, ha certe dimensioni, scusate se chiudo, quando c'è la BCC piccola sul territorio è giusto che tu abbia anche uno statuto diverso, ma ci mancherebbe. Allora, meno 0,50% Milano, meno 1% Parigi, meno 1,60% Francoforte, meno 1,20%, anzi, corretto, scusate, 1,20, 1,90% il Dow Jones e meno 0,40% Londra. Milano quindi se l'è cavata abbastanza bene complessivamente visti i cali. Dopo il GR24 andremo a commentare bene Saipem più 4%. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, no, non torno sul tema delle popolari, faccio notare che alcuni segnalano come soprattutto quando sono quotate in borsa le popolari e hanno quella massa, cioè oltre gli 8 miliardi, si distinguono e si differenziano veramente poco dalle altre banche. Alcuni dicono sì, però perché non dice come mai, guardate che in questo programma le banche le abbiamo sempre attaccate, SPA, popolari nel loro complesso, perché non stiamo elogiando le SPA, stiamo facendo un ragionamento diverso e soprattutto prendiamo atto che finché il governo non è intervenuto in maniera grossier come un elefante in una cristalleria, quello che volete, diciamo anche aprendo i sospetti di possibili aggiotaggi in borsa, però fino ad allora dal mondo delle popolari, che ne dicono adesso, non era mai arrivato lo straccio di una vera riforma credibile che eliminasse alcune situazioni per certe popolari obiettivamente anacronistiche. Paolo Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Borsa in leggero ribasso, devo dire che Milano, come citavamo prima, meno 0,50, perde meno di Parigi che perde l'1,1, Francoforte l'1,60, Londra perde lo 0,60, l'America il 2%. Allora, oggi più che delle banche e delle banche popolari è stata in negativo la giornata di Fiat, va detto però che era un mese e mezzo che cresceva. Sì, esattamente, su Fiat si tratta principalmente, anzi direi quasi esclusivamente, di prese di beneficio dopo la corsa degli ultimi giorni e alla vigilia della pubblicazione dei conti 2014 che sono attesi per domani, quindi prima di conoscere nel dettaglio i numeri di bilancio, evidentemente alcuni degli investitori che avevano guadagnato nelle ultime settimane hanno preferito realizzare parte dei profitti in attesa di riposizionarsi dopo l'annuncio dei conti. E quindi Case New Holland meno 3,33, Fiat Chrysler meno 3% e anche Exor, dove è finita Exor? Eccola qua, meno 1,81%. Poi, sempre tra chi più ha perso, Moncler meno 2,40%, STMicroelectronics meno 2,40% anch'essa e Mediaset meno 1,90%. ST e Mediaset. Sì, su ST si tratta di un ragionamento generale di settore tecnologico in tutta Europa che ha perso l'1,5% appunto a livello di sottoindice del comparto. Stanno arrivando i conti di molte big statunitensi, quelli di Texas Instruments sono stati in linea con le attese, infatti il titolo è poco mosso, mentre negativi, almeno il mercato li ha recepiti male, sono stati quelli di Microsoft che ha registrato un calo dell'utile del 10% e perde adesso il 9% a Wall Street, zavorando un po' tutto il comparto anche in Europa. Allora, vediamo chi è andato bene. Saipem più 4%, è un po' che Saipem si è ripresa, sempre sull'ipotesi che dopo l'abbandono del South Stream, il gasdotto che passava per il Mar Nero e che Putin voleva fare per motivi più che altro geopolitici, per non passare più dall'Ucraina, ma abbandonato come progetto, Saipem era un grossissimo committente. Adesso si è ventilata la settimana scorsa l'ipotesi che comunque la Russia stia studiando un altro progetto. E ancora su questo, perché oggi abbiamo visto anche qualche agenzia sul tema, Paolo? Sì, esattamente, quello che dicevi tu è sicuramente lo sfondo di tutto il recupero di Saipem. Oggi sono arrivate anche agenzie internazionali che danno per imminente l'annuncio della vittoria da parte di Saipem nella gara per la manutenzione e la sostituzione delle tubature del giacimento di Kashagan in Kazakistan. Enorme. È un contratto tra $1.5 miliardi e $2 miliardi, quindi naturalmente certo, molto importante. La società ha fatto sapere che le discussioni sono ancora in corso, ma insomma almeno le indicazioni le davano per imminente, il mercato ci ha creduto. Oggi il titolo è salito di oltre il 4%. Allora, ancora A2A più 3,21%, Mediobanca più 2, Autogrill più 1,70, G-Tech più 1,60, Mediolanum più 1,40, Tenaris più 1,30 come generali, Ferragamo più 0,50%. Oggi, per quello che riguarda invece UnipolSai, gli azionisti del risparmio hanno dato via libera alla conversione. Il titolo? Il titolo ha reagito abbastanza bene, si è fermato a più 0,41%, comunque a fronte di un indice negativo. Il mercato saluta positivamente la semplificazione della struttura del capitale. Inoltre ieri l'amministratore delegato Carlo Cimbri ha aperto la possibilità futura di introduzione del voto multiplo e anche questo ha sostenuto oggi l'andamento del titolo, anche magari in vista di futuri accorciamenti della catena di controllo della compagnia. Allora, per quello che riguarda le banche, le abbiamo citate, sono mediamente in ribasso, anche se non in maniera, diciamo così, drammatica. Intesa San Paolo meno 0,30, Banco Popolare meno 0,50 come UbiBank, appunto, che tu citavi, Monte dei Paschi meno 0,70, Pop Milano meno 1,30, UniCredit meno 1,70%, e direi questo è il grosso delle banche oggi. Tra i migliori e peggiori, Premuda più 13,70, la Roma Calcio più 9,70, Mono TV più 8,90, Industria e Innovazione più 6,20 e Primi sui Motori più 6%. Tra chi perde, Visibilia meno 9,60, Compagnia della Ruota meno 6,50, Blue Note meno 6,40 e Philips meno 5,60%. Euro su dollaro a quota 1,1370. Grazie a Paolo Paronetto. E adesso noi torniamo sul tema Grecia, in realtà ci sono alcune dichiarazioni che sono uscite in questi minuti, e sul tema Grecia, ma anche sul tema complessivo dell'Europa, visto che ci sono diverse dichiarazioni oggi, a partire da quelle del nostro ministro dell'economia Padoan, che già citavamo. Grecia, allora. Non ce la facciamo invece a parlare dell'ILVA, ricordo che alle 19 comunque si terrà nella sede dell'ILVA a Roma l'incontro fra i tre commissari straordinari, Gnudi, Carrubba e Laghi, e i sindacati, FIM, FIOM e WILM, e poi lo faremo domani, a questo punto a incontro già avvenuto, il gruppo dovrebbe ufficialmente inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di cassa integrazione straordinaria a rotazione per 5.000 addetti, e poi il tema dell'altoforno numero 5 che si deve bloccare per manutenzione, ma non si riesce a capire se contestualmente riuscirà a ripartire l'altoforno numero 1, quello fermo dal 2012. Allora, gli ultimi aggiornamenti sul fronte greco, dunque, poco fa il vice ministro con delega ai rapporti economici internazionali di Syriza, Euclid Tsakalotos, ha detto: nessuno crede che il debito greco sia sostenibile, nessun economista può pensare che potremo pagare tutto quel debito, è impossibile. E questo si chiama rinegoziazione. Attenzione, può avvenire o con un haircut, con un taglio, come è avvenuto nel 2013-12, adesso a memoria non me lo ricordo, comunque quando la Grecia rinegoziò un taglio intorno al 45% del suo debito, oppure può avvenire in maniera un po' più morbida, meno traumatica, allungando la scadenza. Se io ti devo dei soldi, è chiaro che se te li devo a 5 anni e rinegozio di darteli a 10 anni, da un lato il vantaggio è che non rinegozio, non taglio il mio debito e quindi il creditore può riavere la somma nominale, dall'altro il vantaggio per me è che ho il doppio del tempo per ripagarlo e quindi diluisco sostanzialmente il debito su più anni. Ha risposto, tra virgolette, poco fa invece Angela Merkel, che si dice contraria e sorpresa per la possibile richiesta di taglio del debito da parte di Tsipras. Fino al 2020 Atene non deve restituire gli aiuti e sono stati accordati interessi bassi, e lo riferiscono partecipanti a una riunione di parlamentari della CDU, ma Angela Merkel vuole attendere che Tsipras, come è suo diritto, avanzi proposte. Beh, non so perché sia così sorpresa la Merkel, era abbastanza noto nel programma di Tsipras non l'uscita dall'euro né il ritorno alla dracma, ma la rinegoziazione del debito. Allora, Dimitri Deleuianes, giornalista greco che per decenni corrispondente dall'Italia per la radio televisione pubblica greca, buonasera. Buonasera. Allora, sei stato facile, o non lo so se facile o non facile, profeta, nel senso che Tsipras ha vinto con un margine forse anche più ampio di quanto si potesse immaginare. Dopo il traffico vorrei un tuo commento su questi ministri, perché molti si stanno interrogando soprattutto su Yannis Varoufakis, perché Varoufakis è uno che nel passato ha definito è il nuovo ministro greco alle finanze, insegna negli Stati Uniti nell'università texana di Austin, è di origine matematico non statistico, ma definì waterboarding fiscale, cioè una tortura fiscale, l'austerity collegata ai salvataggi dei vari paesi dell'area euro, che rischiava di trasformare l'Europa in un riformatorio vittoriano. Ha ritenuto un errore l'ingresso di Atene nell'euro, ma adesso dice sostanzialmente non possiamo uscirne, rassicuriamo i partner, non andrò all'Eurogruppo cercando una soluzione che sia buona solo per il contribuente greco, qui il riferimento era alla Germania, e cattiva per quello irlandese, slovacco, tedesco, francese e italiano. Al di là delle dichiarazioni delle varie parti in commedia, diciamo così, per cui l'Europa deve fare la faccia feroce, dire no, i patti si rispettano, Tsipras ha appena vinto, non può dire beh vado già a trattare e trovare una mediazione, e quindi deve dire che lui insomma il debito non lo ripaga. Vorrei capire, dopo il traffico, in realtà quale può essere un punto di caduta nel senso di condivisione e di mediazione. Allora, Allora, scrive un ascoltatore, i riformatori, non i riformatori, i riformatori dove erano mandati i bambini vittoriani hanno forgiato il più grande impero della storia. Allora, bisogna stare attenti agli accenti. I riformatori vittoriani, boh, non so quali fossero, i vittoriani proprio non erano famosi per essere dei grandi riformatori, ma sicuramente il periodo vittoriano ha sancito il periodo migliore, più aureo dell'impero britannico. I riformatori si riferiscono, se ho ben capito, più a Dickens che all'impero britannico. Però, dimentichi dello Yanes, si arriverà, adesso tutti fanno la faccia feroce, però si arriverà a un punto di compromesso? È così che si fanno i negoziati, e ognuno parte con dicendo no, non cederò mai, è intollerabile questo che tu mi chiedi, inammissibile, eccetera, eccetera, poi alla fine si trova un compromesso che soddisfi tutte e due le parti. Devo dire che questa proposta di allungare, diciamo così, le scadenze del debito era una proposta già portata avanti, presentata dalla Commissione europea col precedente governo, insomma, quindi non è una novità. E devo dare anche ragione alla Merkel, pensa un po' te a che punto siamo arrivati, che in effetti ha ragione. Non è contrario alla linea di questo programma, spesso diamo ragione ai tedeschi, ci mancherebbe, prego. Esatto, è una cosa, se lo sente qualcuno. No. In America ha ragione, cioè il debito dato alla Grecia è stato dato a tassi molto favorevoli. Verissimo. Con questo lasso fino per la restituzione fino al 2020, no, queste sono cose reali e apprezzate, per carità, cioè, il problema vero è la sua incidenza rispetto al PIL, l'abbiamo detto anche l'altra volta, il 176% del PIL è una cosa per un paese con l'economia greca assolutamente non gestibile, ecco. Questo è una cosa semplice, tranquilla, la capisce chiunque conosca le cose economiche anche superficialmente come me, ecco. Sì, cioè, allora sentiamo cosa ha detto il nostro ministro Padoan sulla Grecia e anche il presidente Confindustria Squinzi oggi a margine della presentazione di Madexpo. Li sentiamo in sequenza. Padoan parla di un sentimento comune per cercare una soluzione, mentre il presidente Confindustria Squinzi dice: attenzione, il segnale che è arrivato dalla Grecia è un brutto segnale, perché vuol dire che c'è un profondo disagio sulla gestione dell'Europa e dell'area euro fino ad oggi. Ma innanzitutto vedremo che cosa dirà il nuovo governo greco. Da questo punto di vista all'Ecofin e all'Eurogruppo non si è parlato molto, proprio per rispetto nei confronti del governo greco. Aspettiamo a vedere quali sono le loro intenzioni. Detto questo, c'è anche un sentimento molto condiviso tra i paesi europei di trovare una soluzione concordata con tutti. È interesse di tutti che la Grecia rimanga nell'euro e che continui nell'aggiustamento, ed è anche interesse della Grecia. Quindi io sono molto fiducioso che troveremo una soluzione ai problemi e una volta sentito il nuovo governo. Il governo greco non ci ha detto nulla riguardo al rinegoziato sul debito. È chiaro che la sostenibilità del debito greco è un elemento importante di un piano sostenibile. La Grecia deve ritrovare crescita sostenibile e deve gradualmente ridurre il suo debito. Vedremo come farlo in modo tutti insieme, in modo cooperativo. Certamente è un brutto segnale, perché è il segnale che c'è la maggioranza di uno dei paesi che sono in Europa, che sono nell'euro, che manifestano un profondo disagio su quello che è stata la gestione dell'Europa fino ad oggi. Ecco, dobbiamo fare una riflessione profonda, specialmente noi paesi, quindi mi riferisco a Germania, Francia, Italia, i paesi che sono il nucleo fondatore dell'Europa, devono fare una riflessione e evitare che lo stesso tipo di atteggiamento si diffonda attraverso l'Europa, quindi ritornare a credere con forza nel progetto politico Europa. Allora Dimitri, il punto è molto semplice, non voglio tornare sugli errori commessi nel passato, sono sotto gli occhi di tutti, e come si sia riusciti a trasformare un paese in questo senso marginale, cioè che pesa per il 2% del PIL in Europa, per il 3% del debito, diciamo nella bandiera di un anti-europeismo, nel paradigma di quello che non si doveva fare, nel sbagliare tra punire e umiliare, l'abbiamo detto in tutti questi anni decine di volte, e il voto di Tsipras dimostra che forse qualche cosa avevamo intravisto. Vorrei capire un'altra cosa, però ammettiamo che poi entro l'estate si raggiunga un accordo. Però il tema non è solo rinegoziare il debito greco. Ho capito benissimo che tu, se tu quel poco di attivo di bilancio che hai lo devi pagare per gli interessi, la Grecia non si risolleverà mai. Però la Grecia sarà prima o poi in grado di risollevarsi? A me interessa più questo che il debito, perché sennò fra 4 anni facciamo un'altra puntata in cui la Grecia è di nuovo in default e non ne usciamo. Cioè, le riforme interne, ho visto che Tsipras oggi ha già votato l'aumento del salario minimo da 400 a 700 euro, ma al di là di questo, poi il modello greco si è nel frattempo riformato? Lasciamo stare per un secondo il debito, che è l'ossessione tedesca, ma il resto, il paese? No, le riforme che avrebbero dovuto essere fatte, innanzitutto l'amministrazione pubblica, ed è un problema che riguarda anche l'Italia, non sono state fatte. E questo è il dramma della situazione, questa è la cosa che maggiormente ha fatto arrabbiare i greci e li ha fatti scagliare, punire i vecchi partiti. Perché esattamente quello che doveva essere fatto non è stato fatto, è stato fatto invece quello che non doveva essere fatto. Il problema del tipo di sviluppo, del progetto di sviluppo, è un problema strettamente collegato col debito, e infatti è una pagina bianca nel programma del nuovo governo, lasciata appositamente bianca, perché Tsipras, me l'ha detto anche a me personalmente, insomma, cioè lui ritiene che è inutile che lui elabori progetti di investimenti pubblici per sollevare alcuni settori privilegiati dell'economia, o come il turismo, l'esportazione dell'agroalimentare o cose di questo genere, se prima non concorda con l'Unione Europea una serie di cose, tra le quali anche questa clausola di sviluppo del PIL nel cominciare a pagare il debito, oppure la proposta che è in comune anche col governo italiano, cercare di escludere gli investimenti produttivi dal calcolo del deficit. Sono tutti particolari questi che sarebbe inutile che le facesse il governo da solo, senza nella posizione che allora, trova adesso l'economia greca, allora, senza confronto con l'Europa. Tsipras ha ragione, no? Non può portare un piano industriale, chiamiamolo, esatto, così, per il paese, se non ha concordato da dove arrivano le risorse con l'Europa. Però lo dico anche che Tsipras non giochi con questo, nel senso che io spero che un secondo dopo aver raggiunto un accordo lui abbia già scritto che cosa vuole fare, perché sennò il sospetto, e qui sai, i greci delle volte hanno anche da insegnare agli italiani, pensa un po', il sospetto che si faccia melina, e cioè che tu dici adesso non posso lanciare un piano industriale perché non ho ancora l'accordo con l'Europa. Ok, fai questo accordo con l'Europa entro l'estate, come pensano alcuni, e poi vediamo se ha individuato delle aree. È ovvio che gli investimenti servono, se no non basta Draghi, l'abbiamo spiegato non tanto in Grecia, in tutta l'area euro non basta Draghi, servono gli investimenti anche pubblici per far ripartire anche gli investimenti privati, però poi occorre un piano serio e dettagliato e non scritto così sulla sabbia. Grazie anche a Dimitri De Loianes, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.